Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Paar Vorsprung durch Technik, Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schweinhund. Buonasera, bentornati a questa prima puntata del 2018 della nona stagione di Mighty FM. Chi vi parla dopo una pausa di un intero mese, winter break, è attualmente influenzata perché appena ho deciso di ricominciare con le trasmissioni mi è venuta la febbre, è Claudia Mighty Mouse, sempre dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Via Casarini a Bologna. E iniziamo la trasmissione, cioè la stagione, cioè l'anno, riprendiamo le trasmissioni parlando di una uscita proprio di questo mese. Infatti stavamo aspettando che uscisse questo disco per ascoltarlo, per vedere se ci piaceva abbastanza come i primi pezzi che avevamo sentito. La risposta è sì, è Tune Yards, e questo è il primo pezzo che apre il disco. Heart Attack. L'album si chiama I Can Feel You Creep Into My Private Life, pubblicato per la 4AD, come tutti i suoi album, suoi, ma dovremmo parlare al plurale. Sì, Tune Yards è sempre stata essenzialmente Meryl Garbus, ma adesso è affiancata già da anni materialmente, ma anche privatamente, personalmente, sentimentalmente, ma anche adesso ufficialmente da Nate Brenner al basso. Questo pezzo, come si è potuto sentire, è molto influenzato dalla dance music, dall'house degli inizi degli anni 80, perché l'attività come DJ, un'assoluta novità per lei, è stato uno dei fattori che hanno influenzato molto la produzione di questo ultimo album, uscita a distanza di quasi 4 anni dal precedente Nicki Knack, per una carriera in crescendo, perché comunque è stata sempre molto acclamata dalla critica, anche per la sua originalità, la sua presenza scenica, la vernice colorata sul viso, i boa colorati, il fatto di essere una one woman band ipercinetica con loop pedal, percussioni, ukulele, tastiere, poi questa voce che riesce a modulare in mille modi e che riesce a stratificare, a campionare, a sintetizzare, come ha fatto anche in questo pezzo usando uno strumentino che si chiama OP1. E di questo pezzo e dell'influenza musica house le dice che è sempre stato un po' snob nei confronti della musica a cassa dritta, diciamo four on the floor in 4/4, poi invece leggendo il libro Last Night le dice Save My Life, The History of the Disc Jockey, e ascoltando appunto vecchi pezzi house ha capito quanto invece la ritmica fosse complessa e complicata, e siccome insomma un po' la sua specialità fare ritmiche complesse, sincopate, asimmetriche, inaspettate, inattese, ha deciso appunto di adottare questo suono per questo nuovo album, abbiamo detto uscito il 19 gennaio per 4AD, I Can Feel You Creep Into My Private Life. Ma torniamo indietro nel tempo, all'esordio discografico di Tune Yards, ovvero Meryl Garbus, e avvenne con un disco nel 2008, in realtà era una cassetta registrata modalità totalmente DIY nella sua cameretta, tutti gli strumenti, la voce filtrati da un registratore a mano, proprio quelli che si usano per registrare, che ne so, le lezioni all'università. L'album in cassetta si chiamava Bird Brains, riportava la tipica stilizzazione grafica con cui l'abbiamo conosciuta, questa alternanza di minuscole e maiuscole, sempre a sottolineare l'originalità, la bizzarria, diciamo che l'artista un po' più sghemba, termine che ci piace tanto, di cui ci siamo occupati qui a Might FM, ed un album che poi è stato prontamente notato dalla 4AD, che anzi prima una etichetta statunitense, la Chimera Records, lo ha ristampato in vinile in edizione limitata, e poi nel 2009, un anno dopo, la 4AD se la prende e ristampa l'album in CD con l'aggiunta di un paio di pezzi. Questo è il pezzo che ci è piaciuto di più, si chiama Faia. Contiene elementi indie folk, che un po' insomma la sua origine, ma poi si trasforma assumendo quei suoni che poi sono stati appunto il suo trademark negli anni, ovvero suoni molto influenzati dalla musica africana. Meryl Garbus nasce nel 79 e quindi inizia la sua carriera non giovanissima, come insomma è la media dei musicisti insomma americani, inglesi, cui noi ci occupiamo e ascoltiamo, perché sono state altre le cose di cui si era occupata precedentemente, prima di inaugurare la sua carriera come musicista, come artista in senso lato, adottando questo suono che è stato definito pan global. Nata nel New England, cresciuta nel Connecticut, a New York City, da genitori musicisti, madre pianista, padre suonatore di violino, ma violino folk, il fiddle, che si sono conosciuti appunto alle feste dove si balla la square dance, ovvero la quadriglia, la versione nordamericana della quadriglia. Quindi nata in un ambiente musicale, cresce e frequenta lo Smith College, una delle Seven Sisters, dei sette college femminili di stampo umanistico, come il Barnard, il Bryn Mawr, il Vassar, dove studia teatro e si avvicina al mondo del teatro di burattini. Ha lavorato come burattinaia in un teatro del Vermont, poi ha sconfinato vivendo per un po' nella comunità artistica di Montreal, dove tra l'altro faceva parte di una band, il Sister Suvi, in cui suonava l'ukulele. Tra l'altro anche sua sorella Ruth è una batterista che suona in una band che si chiama Happy Birthday, e appunto decide di fare della musica la sua attività principale ed esce Bird Brains appunto nel 2008. Anzi no, l'etichetta che poi ristampa l'album si chiama Marriage Records, e appunto la registrazione è totalmente DIY, grazie al fatto che i genitori le hanno regalato un computer e gli amici le hanno regalato un registratorino portatile attraverso cui ha filtrato tutti i suoni e con cui registrava qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa poteva entrare ed è entrata nel disco: suoni d'ambiente, rumore del traffico, canti di uccelli, voci di bambini. Right here. Dopo aver ascoltato in sottofondo più che altro Faia, altro pezzo molto bello di Brains era Lions, siamo arrivati al secondo pezzo del nuovo, nuovissimo disco, ovvero Coast to Coast. Quello che leggerete, quello che ho letto sempre è quanto, come non mai, questo album di Tune Yards sia un album politico, politicizzato, quasi un'opera di confessione ed espiazione per un'attività più o meno inconsapevole di appropriazione culturale, su cui comunque io personalmente avrei da dire, per il fatto che Merrill ha sempre adottato suoni africani nella sua musica, anche nella modulazione della voce, però voglio dire, questa è la sua voce e la sua fascinazione per l'Africa ha origini lontane. Da quando era bambina i suoi zii si trasferiscono in Kenya, lei si appassiona all'Africa, basta. Quando poi fa l'università, fa anche un programma di scambio di 6 mesi in Kenya, voleva studiare i pirati somali, gli insegnanti gli hanno detto no, forse è meglio di no, un po' pericoloso, concentrati sulla musica tarab, che è una musica tipica dell'Africa orientale, costiera, sia del Kenya ma anche dello Zanzibar, di Zanzibar, della Tanzania. E quindi, come ci sono musicisti che amano il reggae che ne so, allora nessun bianco dovrebbe suonare jazz, dovrebbe suonare blues, è un po' complicata la cosa e penso che anche dietro a certe accuse ci sia un'anticchia di misoginia, ma ne parleremo per un'ora e mezza quasi. Anche per la presenza di questo suono di pianoforte è stata associata a Life's What You Make It di Talk Talk, per un disco musicalmente molto molto più accessibile. Infatti io ho sempre avuto un po' di problemi, infatti non avevo nessun disco suo, non l'ho mai ascoltata molto, l'ho vista dal vivo in un concerto fenomenale, perché dal vivo super trascinante, era caldissimo, si moriva di caldo, eravamo tutti sudati e appiccicosi per Genital Panic del 2014, ma appunto il suo fatto di essere un po' troppo sperimentale, un po' incasinata, non me la faceva amare particolarmente. Invece questo disco, per me che sono un'anima semplice, è molto più accessibile, legato a dei ritmi dance, dei suoni anni 80 che amiamo, e per il suo contenuto spiccatamente politico di analisi del presente, guardandosi dentro ma guardando appunto al mondo che ci circonda, mi ha fatto assolutamente pensare ad uno dei dischi più politici dell'anno scorso, su cui abbiamo fatto una trasmissione, ovvero Future Politics di Ostra, e quindi ne approfittiamo per ascoltare un pezzo così fatto uscire a metà dicembre, Change the Paradigm, sempre appunto molto molto incentrato su questa necessità di combattere per cambiare la nostra realtà, Ostra, anzi Austra come dice lei. Don't l'altro, anche come Future Politics, anche I Can Feel You Creeping to My Private Life è stato composto tendenzialmente prima dell'elezione di Donald Trump, è stato finito appunto dopo l'elezione e si è comunque dimostrato assolutamente attuale. Infatti anche il pezzo di prima, Coast to Coast, parlava di un desiderio di unità, insomma, anche della popolazione per resistere. Un altro dei temi che occupano i pensieri e le preoccupazioni di Kathy Stelmanis e di Meryl Garbus sono le preoccupazioni riguardanti l'ambiente, la imminente forse fine del mondo, il mondo fisico e naturale come lo conosciamo. Infatti ne approfitto per annunciare il prossimo pezzo, ABC123, che è stato poi il secondo singolo video diffuso all'inizio di dicembre, che noi anche abbiamo suonato già nelle nostre playlist settimanali, che appunto affronta cambiamenti climatici, estinzioni di specie varie e poi soprattutto quello che è il tema centrale di questo disco, l'analisi e la critica, l'autocritica del privilegio bianco e di un concetto, la fragilità bianca, cioè il modo passivo-aggressivo in cui i bianchi reagiscono quando appunto gli viene fatto notare un atteggiamento molto involontariamente o inconsapevolmente razzista. La decisione di parlare di questo disco è stata anche grazie a questo pezzo, perché ascoltando questo pezzo e poi il disco io non potevo fare a meno di muovermi, agitarmi, muovere la testa e il collo, cosa che non fa bene alla mia cervicale, perché lo trovo assolutamente trascinante come i suoi video, questo misto appunto di ritmo, di percussioni, di basso, di un'energia primitiva, primordiale, queste rime un po' da playground, no? da bambini, da girotondo. E poi queste acrobazie vocali, queste melodie, secondo me, bellissime. Quindi poi la maggior parte delle critiche del giornalismo musicale gli ha dato un 8 per una media poi del 7,9, perché è stata solo una insufficienza gravissima da parte di Spin, che ha dato 4 e poi appunto una stragrande maggioranza di 8, perché quello su cui si insiste è che appunto questo disco riesce ad affrontare temi pesanti però in modo appunto musicalmente super coinvolgente. e se qualcuno vuole vivere questo disco, solo vuole esperirlo solo per il suo potenziale danzereccio, va bene lo stesso. Dicevamo di come il primo album Brains fosse stato rieditato, ripubblicato un anno dopo dalla 4AD, che da allora se la tiene stretta, con l'aggiunta di un paio di pezzi, e uno dei due pezzi è questo Real Life Flash, che già, insomma, secondo me si sente che è un po' più ricco, un po' più articolato, un po' tecnicamente un po' più pulito. Poi ci si può chiedere, ma da dove viene questo nome? Tune-Yards, tra l'altro annunciamo, come abbiamo scritto nella nostra presentazione, che oltre ad aver abbandonato la pittura facciale, perché appunto dice la mia musica viene influenzata da un sacco di musica della Somalia, del Mali, sono appunto queste critiche, sospetti, appropriazione culturale, magari la questione è già abbastanza complicata, vediamo almeno di eliminare la pittura facciale. E poi appunto anche eliminato la stilizzazione appunto in maiuscole e minuscole, come se volesse insomma rendere le cose difficili anche a chi scriveva di lei. Ma l'origine del nome, lei racconta che è presa da una canzone che ha scritto ma non ha mai inciso, dove canta "voleremo sopra campi di melodie nei nostri sogni". Perché si era, diciamo, appassionata a quest'idea che, insomma, le canzoni, le ispirazioni non vengono da dentro la persona o l'artista, ma vengono all'artista da fuori. Quindi quando ha scritto quella canzone pensava che appunto le canzoni crescessero proprio in un posto specifico, in un orto, in un campo in cui lei poteva andare e raccogliere questi frutti, come se fosse appunto questo giardino di sogno. E riguardo all'alternanza delle lettere maiuscole e minuscole, dice che forse c'era un pensiero, una volontà di voler costringere le persone a rallentare, ad alterare la loro routine, anche se in un modo così insignificante, no? Anche mentalmente leggendo una parola scritta in maiuscole e minuscole oppure scrivendola. Ma stiamo alternando appunto pezzi della discografia precedente e i cosiddetti contributi esterni. E quindi siamo arrivati al quarto pezzo di I Can Feel You Creep Into My Private Life, ovvero Now As Then. E viene anche molto lodato la bravura con cui i pezzi sono stati editati, con cui si è stata creata anche la tracklist, ovvero l'ordine consecutivo dei pezzi all'interno del disco. Now as then, abbiamo detto, un album fortemente politicizzato, informato ad analizzare appunto i propri difetti, le proprie mancanze, il proprio razzismo interiorizzato, inconsapevole, il privilegio bianco, il fatto che appunto lei dice solo per il fatto di essere cresciuta in una società bianca dove l'essere bianca è la condizione di default ti fa essere intrinsecamente razzista in tutto quello che fai. Ma si parla anche appunto di ambientalismo, si parla di femminismo intersezionale, appunto, dove si dice che la condizione della donna non può essere analizzata senza analizzare la relativa condizione di razza, di classe sociale, eccetera, eccetera, di orientamento sessuale. Quindi è come se con questo disco lei mettesse tutto in discussione, anche quello che ha fatto fino adesso, anche se appunto il suo amore per la musica africana è assolutamente sincero e spassionato, e poi veramente allora dovremmo mettere in discussione tantissima musica, cioè da UB40 che facevano reggae o dai Clash che facevano un pezzo quasi rap, a tanta tanta altra musica. Ma dicevamo appunto che le premesse per la creazione di questo disco sono state l'avvicinarsi all'attività di DJ attraverso una serata settimanale al Hatch, un locale a Oakland, dove poco dopo la produzione del primo disco si è trasferita dopo Montreal, appunto insieme a Nat Brenner. E poi appunto per quanto riguarda il mettere in discussione il proprio ruolo nel mondo come persona bianca che gode del privilegio della razza bianca, ha frequentato un seminario in un centro buddista ad Oakland di 6 mesi che appunto metteva in discussione tutte queste cose, e poi è stato riversato nell'album. Paradise is exactly like where you are right now, only much, much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going. And Fred says, I think he's in some kind of pain. E visto anche il suono un po' dub del pezzo precedente e il fatto che insomma i testi sono assolutamente importanti e il messaggio è assolutamente centrale anche nella musica, abbiamo pensato anche per questioni proprio personali e professionali di Meryl Garbus di metterci Language is a Virus di Laurie Anderson. Well, I was talking to a friend and I was saying I wanted you and I was looking for you but I couldn't. Home of the Brave, 1986. Ma anche perché è venuto fuori Laurie Anderson? Perché comunque gli anni dall'ultimo album a questo appena uscito sono stati ricchi di collaborazioni e proprio di benedizioni dai più grandi, insomma, nomi della musica di un certo tipo, appunto, sperimentale, alta, colta, influenzata anche da tante cose. Parliamo, e già lo anticipiamo, di David Byrne, parliamo di Yoko Ono e parliamo di Laurie Anderson. E questa cosa l'abbiamo scoperta, anzi loro si sono reciprocamente scoperte grazie ad un blog, ad un sito che si chiama Talk House, e sono dei podcast senza nessuna musica se non qualche nota all'inizio o alla fine, dove si mettono a chiacchierare insieme artisti, musicisti, registi, showrunner, insomma personaggi vari, anche con delle associazioni, alcune molto diciamo coerenti, alcune invece molto curiose. E E quindi Lori e Meryl si incontrano nel 2014 ottobre e parlano appunto delle rispettive esperienze e durante appunto quel primo incontro in diretta Lori propone una collaborazione che si concretizza appunto un anno dopo. Ed infatti, per parlare di questa cosa fatta insieme, c'è un altro podcast della fine settembre del 2015, perché insieme hanno lavorato ad una installazione di Lori Anderson, Habeas Corpus, che si tenne per 3 giorni alla Park Avenue Armory di New York City, con collaborazioni di Omar Suleiman, il cantante siriano, e di Mohamed El Gharani, un ex prigioniero di Guantanamo che non poteva entrare negli Stati Uniti, quindi era presente in video, e poi Meryl Garbus che canta in loop un pezzo della sua canzone Business, e poi cantano e fanno insieme O Superman. E quindi insomma, dopo i grandi vecchi di generazioni passate, diciamo che Meryl Garbus si inserisce in questo lineage, in questa discendenza insomma di musicisti americani molto molto meticci, molto influenzati da suoni esterni, molto dediti alla sperimentazione. E quindi è stato grazie a questo Talk House che ha visto, per esempio, che ne so, Phil Selway the Redhead con Ghost Poet, Sam Vincent con Andy Gill the Gang of Four, Kim Deal e Courtney Barnett, Genesis P. Orridge e Laura Jane Grace, quindi diciamo due artisti transgender, e anche Andy Rourke, ex Smith, e la compianta Dolores Riordan, e tante altre cose che sarebbe curioso ascoltare. Quindi insomma, abbiamo parlato della collaborazione tra Lori Anderson e Meryl Garbus. Siamo tornati al quinto pezzo dell'album, Honesty, che appunto riprende molto i suoni della dance house anni 80-90. Anzi, forse più 90, quando lei dice: sono molto affascinata da quelle canzoni dance anni 90 che si affidavano solo ad una parola, ad un concetto grande, non so, freedom, eccetera, eccetera, ripetuto in continuazione. Infatti qui si parla di honesty. E anche questo pezzo parla appunto di essere onesti, di essere sinceri, ed è collegato appunto a questa esperienza importante che dicevo prima, ovvero questo seminario di 6 mesi all'East Bay Meditation Center, un centro buddista dove appunto si è discusso su cosa significa essere bianchi in rapporto alla giustizia razziale, quindi imparare su quanto si partecipa al razzismo e alla supremazia bianca, riconoscendo appunto che è un nostro problema, noi come bianche. E poi un'altra influenza è stato anche ascoltare artisti contemporanei come Kendrick Lamar, i suoi ultimi 3 dischi, Frank Ocean o Solange, che parlano appunto delle loro storie molto personali, però parlando di sé parlano anche del presente, della loro vita nel contesto attuale, politico, sociale e culturale. Infatti questa consapevolezza acquisita ha prodotto questo disco, e come una risposta e un atto di solidarietà appunto al lavoro di artisti come Kendrick Lamar e Solange, e anche sul appunto confermare appunto concetti e campagne con Black Lives Matter, e quindi dare appunto il suo contributo anche come musicista bianco. E una delle cose che ha fatto in questo periodo precedente alla pubblicazione del disco è stato un programma radio. Sempre più spesso mi capita di parlare di artisti che fanno radio o che l'hanno fatta in passato. Il suo programma mensile a Red Bull Radio era Claw, C.L.A.W., che letto così forma la parola artiglio, ma che sta per Collaborative Legions of Artful Women, in realtà scritto con la X, non c'è né la A né la Y né la E su Women, perché è un programma che faceva incontrare producer e autrici di testi che si identificano come donne, quindi cisgender, donne nate donne, oppure transgender o transessuali, eccetera, e che ha visto tra i suoi ospiti Holly Herndon, Susie Analog, molto interessante, ho sentito dei pezzi ma non ho trovato delle tracce, e Keish, che stiamo ascoltando adesso. Hello Keish, maybe she's listening to us from Brooklyn, from New York. Perché parlo così? Perché niente, ci siamo scritte su Twitter, perché io ho cercato dei suoi pezzi e ho trovato questo pezzo pubblicato a giugno, si chiama Sempre. Lei fondamentalmente è una producer cresciuta in Maryland, che ha sempre collaborato con altri artisti facendo appunto una produzione musicale delle basi e anche facendo appunto dei rework. Se vedete il suo SoundCloud c'è Georgia Smith, Jane Birkin, Princess Nokia, Migos, addirittura Bonnie Tyler, eccetera eccetera, ma ultimamente ha collaborato con un artista che si chiama Miss Eves, adesso sta a Brooklyn e sta lavorando su questo progetto che si chiama Beats with Keish, ovvero una serie web dove verranno mostrate degli showcase, delle performance con artisti vari, e abbiamo scelto appunto un pezzo che fosse solo suo. E perché l'ho scritto su Twitter? Perché alla fine di questo pezzo si sente campionato, ma anche insomma un po' distorto, velocizzato, warpato, chipmunkizzato un pezzo di una canzone, e ho capito che era in italiano. Allora l'ho rallentato, cambiato la tonalità eccetera eccetera per riuscire a capire le parole, ma non riuscivo a trovare che canzone era. Allora l'ho scritto su Twitter e ho detto: senti, ma cos'è sta canzone italiana che è campionato? Però siccome sono un po' testarda, ho continuato a cercare e finalmente l'ho trovata. Io l'ho scritto e ho detto: ah sì sì, mi hai battuto. Era diciamo una specie di sfida, di challenge con dei miei amici musicisti per appunto fare dei campionamenti. E poi gli ho detto appunto, l'ho scritto, che avrei passato questo pezzo in trasmissione e chissà se adesso o magari il podcast lo ascolterà. Ho anche cercato di contattare Holly Herndon, perché appunto so che sta cominciando a presentare dal vivo dei pezzi nuovi, ma insomma ci fa sempre piacere quando troviamo delle giovani musiciste emergenti e più o meno sconosciute che ci abbiano a che dire con quello di cui parliamo. Infatti appunto Keish è stata ospite della trasmissione di Mary Garbus Claw. Ed era Peppino Gagliardi, sempre 1971. Ale. E e siamo arrivati al sesto pezzo del disco, che è quello che viene nominato da tutti un po' la pietra dello scandalo. Si chiama Colonizer, dove in modo più duro e impietoso si castiga Meryl Garbus. È messo appunto sapientemente al centro dell'album, come se fosse appunto la spina dorsale, dove lei dice: sento come se fossi fuori da me, sento la mia voce da donna bianca che racconta dei suoi viaggi con uomini africani, uso la mia voce di donna bianca per raccontare queste storie. È anche appunto il pezzo più sghembo, più sperimentale, e lo trovo comunque molto gradevole, anche se appunto sempre questa sottotraccia di fastidio, di disagio. A questo proposito, che appunto oggi leggendo delle recensioni vedo che appunto sono questi recensori che di lingua inglese, americani, che sentono queste canzoni nella loro lingua, capiscono però una parola per un'altra e su questa miscomprehension basano le loro teorie. Infatti qualcuno ha scritto che lei dice my troubles with African men, ovvero i miei problemi con uomini africani, che non è esattamente come semplicemente i miei viaggi con uomini africani, che sono i viaggi che lei ha fatto in Kenya. Assolutamente trascinante. Dicevamo che dopo l'ultimo album del 2014 Meryl è stata coinvolta in un sacco di progetti, e quello più curioso che ho trovato è stato quello in cui l'ha coinvolta David Byrne. Questa appunto è la coda di Colonizer, dove si nomina il titolo del disco. E per parlare di questo progetto di David Byrne ci sentiamo sotto appunto uno dei pezzi che poi appunto rispecchiano anche i suoni di Tune Yards, ovvero quelli di St. Vincent, quelli di David Byrne, quelli di David Byrne e St. Vincent insieme. Si tratta di Who, primo pezzo della loro collaborazione Love This Giant del 2012. Cioè, soprattutto David Byrne con la sua attività solista ha sempre incorporato suoni africani, ma non so se qualcuno parla di appropriazione culturale parlando di David Byrne, o di, non lo so, Damon Albarn quando va in Mali, o che ne so, musicisti nostrani, parliamo di Clap Clap, parliamo di Populus. Per cui, per questo penso che uno ha sempre un po' più il dente avvelenato quando si tratta di femmine. Ma dicevo, il progetto che ha coinvolto Meryl Garbus è stato questo documentario, cioè questa performance, doppia performance, che poi è diventato un documentario, ovvero Contemporary Color. La doppia performance si è tenuta a Brooklyn e a Toronto, e sono due spettacoli delle cosiddette Color Guards, che sono delle squadre, dei team, delle superiori o anche dei college, che sono gruppi, diciamo, acrobatici, come un po' un misto tra sbandieratori, oppure fanno appunto coreografie e poi appunto delle specie di giocoleria con bandiere, fucili o spade, e di solito si esibiscono nell'intervallo durante le partite di football, e poi fanno anche delle competizioni tra scuole, e c'è un appuntamento che si svolge a Dayton, Ohio, ogni anno, dove si sfidano tutti questi team. E David Byrne è rimasto assolutamente affascinato da questa realtà e ha deciso appunto di fare queste due performance live coinvolgendo 10 gruppi formati da 20-40 persone, sia dagli Stati Uniti che dal Canada, e poi 10 musicisti. Quindi ogni performance di un gruppo era accompagnata dal vivo dalla performance di un musicista. E quindi ovviamente c'era lui stesso, David Byrne, poi Nelly Furtado, How to Dress Well, Devonti Hines, ovvero Blood Orange, Zola Jesus, cosa che non sapevo, ma tanti pezzi non si riescono a trovare, e un altro quintetto, una indie pop band di Brooklyn, Lucius, poi Money Mark e Ad Rock, Nico Muli, il compositore, e Ira Glass, Sam Vincent, ovviamente, e Tune Yards, che ha composto un pezzo originale chiamato Body Color, mi pare. E questa performance appunto è diventata un documentario con l'aiuto di fratelli Ross, mi pare, una coppia di filmmaker. È uscito poi nel 2016 e nel 2017 nei cinema, credo. Sarei proprio curiosissima di vedere questo Contemporary Color. Quindi insomma, collaborazioni con Laurie Anderson, collaborazioni con David Byrne. Ma arriviamo al primo pezzone diffuso in anticipazione del disco, era a fine ottobre, questo primo video e singolo, Look at Your Hands, è ugualmente trascinante. Anche questo pezzo appunto sente l'influenza dell'attività di DJ, la creazione di questi beat. Per un pezzo che invece analizza proprio la realtà materiale del mondo, le proprie mani, quello che le nostre mani tengono in mano, un telefono, da dove viene questo telefono, quindi un'analisi del consumismo, come aveva fatto già in un pezzo del primo disco, Little Tiger. E anche appunto frutto di un'altra delle attività che hanno preparato questo disco, ovvero la disciplina della scrittura. Meryl ha sempre scritto molto, ma si è imposta di scrivere ogni mattina, appunto proprio in preparazione di questo album, e questo l'ha aiutato a distillare, insomma a sintetizzare ciò che voleva dire per un disco che è un'evoluzione, è più raffinato, pieno di questi beat insistenti, trascinanti, ritornelli accattivanti, e insieme appunto questioni, domande molto acute, provocatorie, appunto anche disturbanti sulla società moderna. Ha questa capacità pazzesca di fare questa specie di scioglilingua, di usare delle parole come dei suoni, appunto come potrebbero suonare a noi delle canzoni in lingue strane, lingue africane, lingue diverse, lingue e lei riesce a modularli. E infatti, per quanto riguarda i dischi in passato, dice, forse la scelta delle parole non era tanto fondata sul loro significato letterale, ma proprio sul suono, cioè appunto su adattare dei suoni che moduli appunto con la bocca, la lingua, adattarli appunto alla musica che esce fuori. In questo pezzo, secondo me, viene fuori benissimo tra la la la e na na na na na. Non so come fa a non imbrogliarsi. Insomma, diciamo che era un po' telefonata, come si dice, ovvero Shannon, Let the Music Play, 1983, super hit. Volevamo dare riconoscimento e comunque assecondare il nostro autismo, perché ovviamente era facile, insomma. Potremmo, ciao Olivia che balli sulla sedia, e potremmo anche iniziare a scorrere un po' le recensioni invece di arrivare affannate alla fine. Dicevamo 79 su 25 recensioni, due terze delle quali sono degli 8, unica recensione insufficiente fortemente quella di Spin, che dà 4 al disco di Tune Yards, che lo definisce deludente e didascalico, overexplained. Solo un terzo del disco funziona, oscuro e incompleto solo per fan, ma io non sono d'accordo perché a me mi ha reso fan. Poi c'è il 6 di Q Magazine, collegamento riuscito tra indie e R&B che coinvolge l'ascoltatore. Now Magazine Toronto anche 6, suono percussivo e temi progressisti, dai cambiamenti climatici al privilegio bianco, su beat elettro afropop più 80s house. Ma proprio questo affidarsi al suono della drum machine 808 è un po' datato, critica Now Magazine, è un po' datato perché questo gruppo è sempre stato apprezzato per l'aspetto innovativo e sperimentale, ma per lei è stato innovativo e sperimentale, visto che appunto aveva questo distacco snobismo per la musica da dance floor. Poi dice, scritto prima delle elezioni di Trump, come Future Politics dico io, ma estremamente attuale. E chi può biasimare il desiderio di scaricare tutta questa tensione sociopolitica sul dance floor? E finisce Shannon e arriviamo al pezzo più indie. Diciamo che la parte più indie, folk, un po' lo-fi l'ha abbandonata dopo il primo disco, per appunto darsi a più suoni caraibici, africani, haitiani, eccetera. Questo invece è un pezzo assolutamente indie. Poi questo basso, c'è anche un altro pezzo che sentiremo dopo che ricorda un po' le Breeders, il basso di Cannonball. Questa sembra quasi una versione rallentata. Si chiama Home, dove si ripete she's a fool, she's a fool, ma non parla di qualcun altro, parla sempre di se stessa. appunto come in altri pezzi il basso è assolutamente centrale insieme al ritmo, anche se questo pezzo è lentissimo, è il più lento, e lei dice l'abbiamo messo a questo punto dell'album perché forse era arrivato il momento giusto per rallentare. Qui dal testo sembra che faccia riferimento a senza tetto, casa in un vicolo di lattine e borse, casa in una tenda fatta di stracci, casa in un odio che non puoi vedere. Che questo pezzo mi ricorda tantissimo qualcosa, ma dall'indie si passa all'afro, come nel caso di Fire che abbiamo sentito prima, ma andiamo avanti con le recensioni, che all'estremo opposto invece in cima il voto più alto gliel'ha dato la Chicago Tribune. ...8,8... Nel disco Meryl Garbo si interroga in modo inflessibile, smonta le sue contraddizioni e autoillusioni, fin dall'esordio ha unito intelletto critico a ritmi che fanno ancheggiare, e quest'album, I Can Feel You Creeping Into My Private Life, è sia più raffinato che più crudo, raw. Per i temi trattati, ovviamente vengono sempre ripetuti, privilegio bianco, appropriazione culturale, fine del mondo, ma questi temi non risultano ostici perché la musica è stata pensata per essere sparata da casse potenti di un dance club, per un dialogo mente-corpo continuo, non c'è progresso senza conflitto, confronto in senso di scontro. Un album che può rivelarsi più estremamente accattivante, per me appunto è stato così, ma anche il più invece interiormente disturbante. E eccolo un po' il riferimento alle Breeders, ma anche, dai, ci sento anche un po' di Beck, ci sento un po' di MIA, ci sento un po' di Vampire Weekend, ci sento Santo Gold. E siamo arrivati a uno dei pezzi più popolari del secondo disco, Who Kill, anche questo scritto in modo strano, ovvero tutto in minuscolo, però con uno spazio tra le lettere e una parola sola, Who Kill, che appunto è stato composto dopo essere andata a Oakland e aver cominciato a collaborare o a stare insieme a Nate Brenner. E quindi ascoltiamo una tripletta, cioè questo molto MIA. Una tripletta tratta da questo disco, Gangsta, Business e My Country. Tra l'altro questo pezzo è passato brevemente in una scena molto breve di Orange is the New Black della prima stagione, per un disco appunto che ha riscosso buone critiche, è stato incluso in varie classifiche annuali del 2011. E il tour di quel disco ha anche visto una data bolognese, infatti nel marzo del 2012 ha suonato al Locomotive, noi invece ci eravamo nel 2014 sempre al Locomotive, mentre questo pezzo Business compare anche nella terza stagione di Transparent. E già appunto da sempre i temi trattati sono stati quelli della razza, della violenza, del privilegio. D'altra parte passare dal New England, dalla costa appunto nord-est, proprio WASP bianca, a Oakland, che appunto alle porte di San Francisco, dove c'è una scena anche hip hop rap molto forte, insomma è stato ancora un bello shock culturale. Infatti è questa frase, don't take my life away, don't take my life away, che ha rielaborato anche per la performance con Laurie Anderson. E appunto nel suono di questo album Who Kill si sente una crescita, un respiro più ampio, un expanded sound, come si può dire, più varietà, più sperimentazione, strumentazione più ampia. Anche se l'aggettivo che viene sempre usato è scrappy, ovvero un po' frammentato, appunto questo senso di collage musicale, ma anche un po' di anche un po' nel senso di sparpagliato. Stavamo leggendo l'altro voto più alto che ha preso I Can Feel You Creep Into My Private Life, vabbè, perenne la presenza del sax anche in questo ultimo disco, cioè l'8.3 dell'AV Club. Gli esperimenti ritmici di Garbus e Brenner si inoltrano in territorio elettronico, incorporando i beat del dance floor nella loro gioiosa cacofonia di rock, funk, R&B, jazz e influenze africane. Un disco concentrato, ossessionato dalla libertà, sia politica che mentale che fisica, è dedito a esaminare e sovvertire preconcetti, supposizioni, riuscendo in entrambi gli scopi. E questo è l'ultimo pezzo, questo collage a sua volta di Who Kill, ovvero My Country, uno dei video singoli. E l'abbiamo un po' stroncata brutalmente. Siamo arrivati al nono pezzo del disco. Anche una cosa signature, diciamo, del suono di Tool Yards è l'uso delle mani, del battimani, che appunto spesso lei si campiona dal vivo. E dice: lui non mi si toglie di dosso, non mi lascia in pace, non mi lascia stare. E lei dice: questo invece appunto è sull'essere, insomma, donna, questa società. C'è questa canzone, anche questa canzone potrebbe parlare di Trump, ma non è questo il motivo per cui l'ho scritta. Potrebbe anche parlare di politica di genere, ma non è questo il motivo per cui l'ho scritta. Eppure in realtà parla di tutte queste cose insieme. Parla del patriarcato, sì, sicuramente, ma si estende appunto alla white supremacy e al neocolonialismo, che sono tutti i veleni della nostra società. E cioè, a livello di contenuto, io insomma prendo atto e cerco di capire la mia limitata conoscenza ed esperienza come una persona bianca a Oakland, e mi chiedo quindi qual è il mio posto in questa comunità. Il tema della consapevolezza di genere, il femminismo intersezionale e anche l'impulso per la nascita del suo progetto Tune Yards è stato appunto dal vedere che non c'era una gran presenza di donne musiciste che sovvertissero l'immagine della pop star accettabile, sexy e carina, a parte, lei cita Peaches e Annie DiFranco. E dice, non c'erano molti esempi di donne fighe e cacciarone, casinare. E come in questo pezzo, appunto, l'attività di Tune Yards è stata appunto sempre quella di investigare attraverso la musica qual è il proprio ruolo nel mondo. E anche mettersi alla prova, infatti il fatto di aver fatto in totale DIY il primo disco era appunto vedere se ci sarebbe riuscita, insomma, con pochi mezzi a fare così da sola, mettendosi alla prova in un, diciamo, esperimento di sonic recycling, riciclaggio di suoni appunto dall'uso di registrazioni varie, field recording. E tra le varie pubblicazioni di Tune Yards c'è anche un singolo di due pezzi che si chiama semplicemente Tune Yards as Yoko. Try to rob a soul away. I lost my voice from fear. My legs would not move ahead. Many of us were bleeding to death. Many of us were reaching for breath. Questo mi pare inciso per la Chimera Records, un'etichetta americana, conteneva una cover di un pezzo di Yoko Ono e questo specie di remix, rework di un pezzo che si chiama Warrior Woman, che è stato pubblicato solo nei primi anni 90 in un cofanetto Ono Box che raccoglieva tutti i pezzi di Yoko Ono dal 68 all'85 e che appunto poi è stato anche adottato, endorsato, quindi super approvato da Yoko Ono stessa, che lo ha inserito in una compilation dal titolo Yes, I'm a Witch 2 del 2016, che faceva seguito ad un album Yes, I'm a Witch, che erano appunto rielaborazioni, collaborazioni dei suoi pezzi già uscito nel 2007. Sisters, Remember the shame, the massacre of warrior woman. E siamo tornate a Can Feel You Creep Into My Private Life con Who Are You, anche questo è un suono molto vintage. Questo pezzo molto dub. Tornando alle recensioni, anche Pitchfork ha dato un voto appena superiore alla sufficienza, 6,2, perché dice sì, è un disco intenzionalmente polemico, provocatore, conflittuale, tutte traduzioni possibili di confrontational, mirato più a distruggere il suo ego che a gonfiarlo, ok? Ma le voci del senso di colpo bianco sono la quasi totalità di questo disco e spesso rende l'ascolto difficile, ma non per i motivi che magari sperava lei. E anche qui io dico che se fosse stato un artista maschio a interrogarsi così, magari sarebbe stato lodato per la sua profondità, sensibilità, coraggio, onestà, mentre una donna viene sempre considerata petulante. Comunque, Pitchfork però dice che sì, la musica da soddisfa fisicamente, ma i testi sono un po' fuori luogo e quindi kill the vibe, cioè fanno passare la poesia. Perché, ok, la consapevolezza è il privilegio bianco, ma spesso sfora in autoesaltazione della serie. Mi do la pacca sulla spalla, guarda come sono brava io, bianca, consapevole, cosciente, non come gli altri bianchi cattivi che sono razzisti. Certo, i temi non sono nuovi per Tune Yards, ma sono espressi in modo sgraziato addirittura. Che appunto i testi sono, dico io, più espliciti, ci sono meno allusioni, meno poesia, sono meno criptici, sono più diretti, quindi questo viene considerato un difetto da Pitchfork. E poi fa riferimento anche ad un'intervista di Meryl Garb sul Financial Times, niente meno. Poi passiamo al set di Clash Music, sempre più esplicitamente politicizzati, ma contagiosamente gioiosi, un disco energico e intelligente, però in pericolo di oversaturazione, che è impossibile, cioè saturazione, sì, è già saturazione. Questo non so perché anche mi ricordava il pezzo più lento, l'ultimo di chiusura, Future Politics 43, che ha una ritmica cumbia, ma come atmosfera me lo ricorda. E una delle attività, o perlomeno insomma dei riconoscimenti, è stato appunto firmare un pezzo per Mavis Staples, inserito nel suo album del 2016, poi ne ha fatto un altro subito nel 2017. Questa è Action. They say my words might get me fired. This ain't heaven, what a terrifying time to raise our voices. Inserita invece in Living on a High Note. But see, I'm not left with many more choices. This ain't heaven, I gotta put it into action. Action, action, action. Doing it ain't until I set myself free. Action, action, oh, action. Action, action. I don't care if you refuse to see. I gotta put it in action, action, action, action, action. Consider this a sign of an emergency. Action, action, action, action. Who's gonna do it if I don't do it? So my brains are filled with fear. Feel the heat as night comes near. O A C T I O N. Please don't stop if you're really my friend. I gotta put it into action, action, action, action. Doing it A to Z until I feel so free. Action, action. I don't care if you refuse to see. I gotta put it into action. scared. I'm so tired of being scared. Action di Mavis Staples, 78 anni, cantante rhythm and blues, gospel, attrice e anche attivista per i diritti civili. Gotta share the truth that's inside of me. This is an emergency of the highest and the fullest and the final degree. I'm still trying to be free. Don't let this separate you. Eravamo arrivati a un altro set, Paste Magazine. Un'analisi in 12 pezzi degli effetti insidiosi del razzismo sbadato, cioè quello inconsapevole, involontario, non pensato, e del privilegio bianco come percepiti da una donna bianca con un penchant per i ritmi africani. Meryl Garbus affronta la sua complicità a testa bassa, mettendo continuamente in discussione le sue motivazioni e preconcetti. Uso della voce come strumento percussivo, musica più complessa che in passato per rispecchiare i temi impegnativi dei testi. Si castiga per essere cresciuta immersa in una cultura in cui essere bianca appunto alla condizione di default, ma non è una difesa, ma la realizzazione che si può cambiare. E questa qui è Water Fountain, uno dei pezzi più conosciuti, appunto tratti dal terzo album Nicki Knack del 2014. Nicki Knack, questo personaggio fittizio appunto creato per l'album, dove si parla appunto di Water Fountain, cioè non c'è più l'acqua nelle fontanelle pubbliche, non ci sono più marciapiedi, quindi appunto di come diciamo le cose primarie a cui appunto dovrebbe pensare l'amministrazione, insomma, stanno cadendo a pezzi, eccetera, e che se appunto continuano così le cose, magari la gente può attaccare il proprio vicino, cioè se io non trovo l'acqua a casa mia magari vengo a prenderla da te che ce l'hai, che magari hai più soldi e sei privilegiato. E quindi questa consapevolezza ambientalista ha fatto sì che Meryl abbia creato il Water Fountain Fund, appunto un fondo per le questioni relative alle risorse idriche, che finora ha raccolto e donato oltre $75,000 a organizzazioni no profit, e infatti anche $1 per ogni biglietto venduto del tour americano che fa adesso e poi del tour nord europeo che farà a marzo, un dollaro verrà appunto devoluto a associazioni no profit. Abbiamo attaccato un altro pezzo di Nicki Knack, ovvero Real Thing. Però appunto, ripeto, se uno si appassiona a un certo tipo di musica e poi la suona, cioè ci sono appunto vari livelli di appropriazione culturale, diciamo che adesso insomma le cose gestite all'americana, insomma quando poi una cosa viene fuori c'è un po' questa tendenza alla caccia alle streghe di additare tante cose, insomma anche appunto cose meno gravi o più comprensibili appunto dal punto di vista culturale e musicale. Lei è una musicista che si è appassionata a un certo tipo di musica, una passione iniziata quando era piccola, quindi da qui ha studiato lo Swahili al college, è andata 6 mesi in Kenya, ha iniziato questa musica, la passione per questa musica dell'Africa dell'Est, faceva una trasmissione alla radio del college appunto sulla musica africana, e quindi poi passione per la percussione, per la danza. Quindi, insomma, secondo me lo sfruttamento di una cultura, secondo me, è altro. E l'album, appunto, Nicky Knack viene definito come synth fueled, dove c'è molta la presenza sia dei synth che delle percussioni haitiane. Infatti ha fatto un viaggio in Haiti dove ha studiato percussioni haitiane, e quindi un'evoluzione naturale del suono, che però appunto è sempre più realizzato, sempre una visione sempre più, insomma, manifestata, espressa, cioè suono tipo appunto collage sempre presente, campionamento delle voci, però appunto un disco soprattutto concentrato sulla trasformazione del suono, suoni acustici che suonano digitali, suoni digitali che sembrano acustici, è appunto basato soprattutto sullo studio del ritmo, sulla appunto percussioni haitiane, quindi appunto un'esauribile volontà di sperimentazione. E a me mi ci suonava bene Fever Ray, perché ha sempre questa ritmica, soprattutto in Knife dell'ultimo disco, Shaking the Habitual, ha tantissimo di ritmi africani. Ricordiamo allora anche l'appropriazione della musica della Shangaan Electro, dell'Electro invece dell'Africa occidentale, da parte del fratellino di Karin Dreyer, Olaf, sotto lo pseudonimo di Oni Ayun, quindi appunto dei suoni africani sincopati, percussioni molto presenti in Shaking the Habitual e ancora presenti nell'ultimo bel disco di Fever Ray, Plunge. E quindi ci è sembrato adatto mettere un pezzo di questo disco che si chiama Mama's Hand. Poi continuiamo con le reviews. Under the Radar 8, inizia la schiera infinita degli 8. I Can Feel You Creep Into My Private Life è una naturale aggiunta al catalogo di Two Yards, un insieme di album con canzoni così singolari che quasi ogni traccia sembra un'evoluzione proprio del proprio suono. Two Yards, un controllo totale della voce. Cosa farà ancora? What's she gonna do next? Poi Record Collector 8, Garbus permette che questioni più profonde si insimilino, appunto creep, nei suoi testi, con la sua facilità nel creare ibridi afro-indie pop che le spianano la strada, cioè facilitano il compito, no? Questa musica così orecchiabile facilita appunto il compito di introdurre temi pesanti. Tensione tra pubblico e privato, rimbalzando tra terrori moderni e lotta appassionata, I Can Feel You esulta nel brivido della scoperta autodeterminata. Amen, direi. Poi The 405, I Can Feel You Creep Into My Private Life è il confessionale attraverso cui Mary Garbus espia i propri peccati. Two Yards sono sempre stati amati dalla critica, anche se c'era sempre un po' di disagio relativo alla sospetta appropriazione culturale. Musica e voce, ma io dico, ma c'è quella voce lì? Vabbè. Nel disco affronta questo tema e anche razzismo, sessismo, crescente fascismo. Poi la citazione appunto della DJ culture, dell'African drumming e del sassofono jazz dissonante. Un album difficile per i contenuti, ma musicalmente il più accessibile. E siamo arrivati a Private Life, che appunto cita parzialmente il titolo e che è molto africano. Ah, appunto anche nel caso di questo testo dice I don't wanna hear my voice, e un recensore ha scritto I don't want hear no lies, che cambia insomma leggermente il concetto. E questo è proprio un pezzo che parla della appropriazione culturale, facendo riferimento anche al progetto di Graceland di Paul Simon, che ha sdoganato i suoni africani nella musica, insomma pop, anche grandissimo successo americana, però appunto ha sollevato critiche perché erano ancora gli anni dell'apartheid e lui era andato in Sudafrica a suonare con dei musicisti, ma per esempio è stato molto molto lodato da uno come Joe Strummer, per dire. Cioè anche questo, come si fa a non ballare? Poi Uncut 8, Two Yards abbraccia la vasta nozione di electronic dance music, ma è come una mirror ball che rifrange Motown, disco dei primi anni 80, funk, piano house anni 90 e R&B contemporaneo. Poi riporta una sua dichiarazione: ho sempre amato fare musica che facesse ballare, ho sempre voluto complicare la musica pop ritmicamente, melodicamente, nei testi e nei temi, volevo vedere se riuscivamo a fare musica dance con elementi elettronici ma che però fosse in linea con la nostra produzione precedente. Questa è una citazione Reveal Yourself di Ladysmith Black Mambazo, appunto io non lo vedo tanto come appropriazione culturale ma proprio come omaggio. Nella recensione di Uncut c'è anche una sezione Q&A, un paio di domande dove appunto le chiedono qual è stato l'approccio a questo album e lei racconta appunto di questo evento importantissimo. Dice: tanta musica di Two Yards è direttamente influenzata dalla musica nera, dal folk e pop, pop africani, dall'hip hop, funk, rock, soul, blues, e sento veramente questo distacco, questa disconnessione tra quello che noi facciamo e il nostro pubblico, che è soprattutto bianco, e non riesco a vedere che quello che noi facciamo provochi una reale analisi da parte del nostro pubblico. Mi chiedo se siamo espliciti abbastanza riguardo a quanto comunque ci sentiamo a disagio per essere complici comunque di un sistema che vede la supremazia bianca, che è inerentemente razzista. Appunto racconta di quando era a un concerto e cantava una canzone, Doorstep, che appunto parla di un atto di brutalità, di violenza della polizia, di un uomo appunto ucciso, un uomo nero appunto innocente ucciso, e dice: una volta c'era un concerto e visto che c'era solo un giovane maschio nero con le mani alzate, no? Come la serie Non sparare, ma nessuno intorno a lui, che erano tutti bianchi, mostravano solidarietà o appunto mostravano di capire veramente di cosa noi parlavamo. Appunto, parlando appunto dell'introduzione dei ritmi africani, percussioni, ritmi sincopati nella musica pop bianca, visto che è appena uscito l'album Marble Skies lo scorso lunedì e visto che li abbiamo sempre amati, ci ascoltiamo così in sottofondo In Your Beat di Django Django. Poi Slant Magazine 8, l'introspezione di Merrill non porta a profonde rivelazioni, ma alla catarsi, a cogliere quello che la mette a disagio, a trovare la forza per porre domande importanti che non hanno facili risposte. Un album che promuove una personale resa dei conti per la propria complicità con una cultura sempre più tossica, che da una parte aizza l'indignazione, anche ottusa, dico io, e dall'altra anestetizza dolorose realtà. Mojo, sempre 8, Meryl ha mandato una lettera alla stampa per spiegare qualcosa del suo complicato e personale background. Vi dice: quest'album è il mezzo per una donna cisgender, quindi una donna nata donna, bianca, che ha una relazione eteronormativa, di esplorare il suo posto nel mondo. Poi All Music 8, un disco meno bizzarro dei precedenti, ma che riesce ancora ad essere divertenti in modo che, in modi che nulla tolgono alla urgenza nei temi. E finiamo appunto quest'opera di catarsi con l'ultimo pezzo che chiude il disco, che si chiama appunto Free. Poi finiamo con The Guardian, che dice, sempre 8, a voler essere cattivi si potrebbe dire che il fervore, lo slancio di Meryl Garbus nell'espiare per le trasgressioni passate è reso in modo così ingombrante da suggerire che il desiderio di mostrare la propria consapevolezza, il proprio risveglio, supera magari il desiderio di fare musica interessante. Ma a parte il peso di Colonizer, il resto del disco è un tocco più leggero, aiutato anche dal recente amore per Laus, un disco molto 2018, il suono provocatorio, incasinato, spesso brillante, di un artista talentuoso e originale che cerca la sua strada in questo processo che il New York Magazine The Cut ha definito il grande risveglio della cultura pop. Un articolo lunghissimo che mi sono bookmarkata e che leggerò. Poi dice: a volte il disco ti fa serrare le mascelle e fare una smorfia, ma molto più spesso ti fa venire voglia di ballare. Infatti appunto a me fa questo effetto. Insomma, anche quando facilecca ti dice qualcosa del mondo in cui viviamo. Appunto il basso, appunto come dice l'ultima recensione che leggiamo, Drowned in Sound, il basso è proprio il nucleo di questo disco. Un album molto attuale, molto necessario, come Anonymous, Riot, Against Me, nel caos politico, sociale e ambientale del mondo d'oggi. Toon Yards guarda cosa siamo come individui, alle nostre crepe e fallimenti, alle nostre contraddizioni, ai modi in cui potremmo metterci in discussione per poter poi cambiare le cose intorno a noi. Meryl imbriglia il potere che proviene dall'affrontare verità difficili e lo trasforma in dance pop complesso che causa dipendenza. Garbus ha conservato il suo stile fatto di loop e voci stratificate per far esplodere la sua voce meravigliosamente malleabile in, in una miriade di modi. Appunto, la forza e l'anima del disco sono la voce e il basso. Insomma, per noi di Might FM un disco molto gradevole, molto importante, che appunto a volte la musica ti fa dimenticare la pesantezza dei testi, ma appunto assolutamente contemporaneo e che ci è piaciuto molto, come forse si è potuto evincere. La trasmissione finisce qui con Free, Toon Yards, I Can Feel You Creep Into My Private Life. Ciao da Claudia, Mighty Mouth.